un po' tutto, insomma, un po' è molto diplomatica come risposta la sua, va bene, ma l'accettiamo. Senta, questo 1.200.000 firme hanno riportato alla questione del dibattito sul sistema elettorale, che forse è una questione un po' noiosa e anche un po' pesante, però il concetto è che tutti vogliono chiedere, questo cosa vuol dire, che si deve votare prima o si deve votare dopo, cioè si voterà anticipatamente nel 2012 secondo lei? Ma secondo me dubito che si voti anticipatamente, perché non so chi abbia voglia di andare a votare in anticipo, perché andare a governare adesso non è un esercizio facile, e quindi se anche l'opposizione non so se abbia voglia di provare a andare a votare prima, penso che preferisca che lasciare che vada avanti il centrodestra. Dopodiché questo non può essere un motivo per vivacchiare, cioè bisogna comunque utilizzare al meglio il tempo che resta fino alle elezioni. Forse si può votare 6 mesi prima, ecco, quindi fra un anno, per capirci. Votare adesso, alla prossima primavera, trovo difficile. Ma questo anche se incombe questo referendum, cioè, perché molti dicono, per evitare il referendum che cambierebbe la legge elettorale, si potrebbe fare la mossa di andare a votare prima. Ma non sarebbe una bella idea, per una serie di motivi. Uno, perché se vai a votare prima crei comunque un periodo di vuoto, perché si sa che prima delle elezioni e dopo le elezioni ci sono alcuni mesi di vuoto, e con la situazione dell'economia e dei conti pubblici italiani, con i mercati che ci guardano e con la speculazione internazionale, lasciare il vuoto non è proprio il momento di farlo. Poi oggi c'è una grande disaffezione da parte dei cittadini, e andare a votare con quella legge elettorale non aiuta a riavvicinarli, perché è una legge elettorale decisamente brutta, perché non consente di scegliere, e quindi bisognerebbe, secondo me, per provare a ridare un po' più di fiducia, non è che questo sia determinante, ma comunque se gli si dà la possibilità ai cittadini di scegliere chi votare, che sarebbe una cosa anche normale in democrazia, forse magari qualcuno in più va a votare. Se, ma lei dice legge elettorale brutta, sa che l'ha voluta il suo ministro Calderoli? No, perché poi dicono un Tosi disallineato con la Lega. No, mare, Calderoli fu il primissimo che immediatamente dopo disse che era una porcata. Quella legge lì è stata fatta, secondo i calcoli ben precisi, per garantirsi la vittoria elettorale in quel momento, e in effetti portò a quel tipo di risultato, però come legge effettivamente è una schifezza, insomma, una legge che non consente di scegliere neanche lontanamente gli eletti, è decisamente una bruttissima legge, però venne fatta con uno scopo preciso. Senta, visto che lei parla appunto di riforme da fare, le piace il manifesto delle imprese? Qualcuno ha detto una controriforma, oppure si allinea alle critiche di chi dice, beh, ma gli imprenditori cosa hanno fatto fino adesso? Ma direi che cancellare le pensioni di anzianità, un discorso è discuterne, rivedere, ritarare, cancellarle, quello mi pare. C'è gente che rischia di lavorare 50 anni per arrivare all'età pensionabile, forse anche di più, quindi ecco, c'è quello da rivedere. Sul discorso che chiedono una riduzione seria dei costi del sistema pubblico e una serie di altre richieste, ci stanno, ed è anche abbastanza normale che le categorie economiche facciano delle proposte alla politica, mi pare giusto. Le chiedo questo, ma la sua vicenda personale ce la vuoi chiarire? Perché dicono di un Tosi che addirittura ha rischiato l'espulsione dalla Lega, o di tensioni all'interno della Lega? No, non c'è mai stata nessuna né richiesta di espulsione, né niente di simile. Semplicemente è chiaro che all'interno del movimento ci può essere un po' di dibattito, poi c'è stata la finanziaria, che insomma è stata dolorosa, e quindi un po' di dibattito all'interno c'è stato, soprattutto da parte dei sindaci, perché è chiaro che io, per dirle, dall'anno scorso a quest'anno come Comune di Verona ho avuto una decurtazione di quello che lo Stato mi restituisce di 12 milioni, da quest'anno all'anno prossimo saranno altri 17,5, quindi in 2 anni 30 milioni, praticamente lo Stato mi dimezza quello che mi restituisce, insomma è pesante, e quindi è normale che un sindaco, difendendo la sua città, critichi questo tipo di situazione, che lo Stato tagli i costi dello Stato centrale, che poi sono quelli i veri problemi, anche quelli segnati industriali. I comuni non ne parlano, perché sanno che i comuni hanno i conti a posto, non gravano su nessuno, hanno i conti a posto, è lo Stato centrale quello che grava sulle tasse e sulle tasche di tutti. Le ultime due battute sono su questo. Lei ha detto più volte che secondo, al suo parere, Berlusconi ha finito il suo ciclo, però oggi su Repubblica c'è scritto: Berlusconi pensa a un rilancio, a cambiare un nuovo partito cavalcando l'antipolitica, pare un nuovo Predellino. Le pare possibile che ci sia un rilancio del Premier in futuro? Ma guardi, c'è una serie di aspetti. Uno è anche banalmente anagrafico, perché da Sarkozy a Obama, alla Merkel, a Cameron, la fascia d'età di tutte queste persone, se uno guarda, Berlusconi ha grosso modo una volta e mezzo i loro anni. Quindi c'è anche un fatto anagrafico. E poi perché comunque l'impressione che ha sottoscritto è che mentre una volta Berlusconi era un leader amato, ma veramente amato dagli italiani, oggi questo tipo di sentimento si è cambiato. Non c'è più, non lo amano più. Non c'è più il feeling che c'era una volta, ma è normale, cioè per chiunque, per il Premier, per i sindaci, per chiunque, c'è un ciclo che ha un inizio e una fine. L'ultima battuta, ieri non so se ha visto Gigi Moncalvo, ex direttore della Padania, raccontare da Lucia Annunziata che ci sarebbe un vero e proprio patto, con tanto di contratto, tra Berlusconi e Bossi, con Berlusconi che avrebbe salvato anche economicamente la Lega e che per questo sarebbe anche il titolare del marchio della Lega Nord. Le pare? Boh, a me sembrano così, a occhio e croce mi sembrano delle stupidaggini clamorose, perché se ne possono dire tante, ma questa mi sembra veramente a livello di barzelletta, insomma, come fanno delle cose decisamente poco credibili. Poco credibile, cioè il patto è politico solo tra Berlusconi. Sì, direi che è normale e ovvio che sia così, troverei veramente ridicolo che sia una cosa diversa, ma ridicolo anche perché dal punto di vista legale non varrebbe nulla. E conoscendo Bossi quanto tiene alla Lega, mi pare una stupidaggine grossolana. Va bene, la ringrazio sindaco per essere stato con noi. A voi grazie. Sindaco di Verona Flavio Tosi della Lega. 24 mattino. Eccoci, le 8:35 minuti. Allora, vogliamo parlare, dopo aver fatto due chiacchiere col sindaco di Verona Flavio Tosi, dell'attualità politica. È la settimana in cui si dibatte sulle intercettazioni, ma è anche la settimana in cui il dibattito politico è animato da questo 1.200.000 firme, così come dalle proposte in tema economico, anche il cosiddetto manifesto degli industriali, se volete anche lo sfogo, il jacuzzi molto forte di Diego Della Valle, che ha comprato pagine di quotidiani per attaccare la politica. Ne parliamo con il direttore del Tempo, Mario Secchi. Buongiorno e ben ritrovato, Secchi. Saluto anche il vice direttore dell'Unità, Rinaldo Gianola. Buongiorno Rinaldo, eccoci qua. Buongiorno a voi. Allora, intanto io partirei da questo 1.200.000 firme. Lo so, è pigrizia mentale mia, forse non mi riesco ad appassionare alla questione del sistema elettorale, che è centrale invece, no? Il sistema con cui si eleggono i nostri rappresentanti politici. Ma insomma, tra il Mattarellum, il Porcellum, il sistema francese, spagnolo, tedesco e ungherese proposto oggi dal Sole 24 Ore, a pagina 18, se volete cimentarvi, a me un po' viene già mal di testa. Però vorrei chiedere, forse la cosa che si chiedono tutti gli italiani è questa, e partirei da Mario Secchi: questo 1.200.000 firme, questo referendum che incombe, vuol dire che si potrebbe andare a votare prima o no? Beh sì, come vedete il fronte del voto si sta allargando. Ora è un fronte non maggioritario per il momento, nel senso che quelli che si sono espressi chiaramente a favore del voto sono stati prima Maroni e poi Casini. Maroni però ha smentito a sua volta, da sapete che nella Lega c'è qualche problemino. Sì, anche se smentiscono. Da Calderoni, insomma, c'è un po' di confusione, diciamo, ma a parte queste cose che stanno a metà tra la politica e il folklore, la verità è che il referendum innesca tutta una serie di conseguenze politiche, per cui se passa, io sono convinto che passa, a quel punto si torna al Mattarellum, quindi ai collegi uninominali, al 75% di maggioritario, al 25% di proporzionale. Anche quello ha dei problemi, parliamoci chiaro, però certo, comunque è un taglio netto sui sogni per esempio dell'UDC di fare da ago della bilancia in qualche maniera, no? e la stessa Lega avrebbe qualche problema sui collegi uninominali rispetto a questo sistema che la garantisce. Insomma, in realtà è vero quello che tu dici, cioè non bisogna appassionarsi troppo all'ingegneria elettorale, sì. Però è anche vero che ha delle conseguenze politiche, cioè che dalla legge elettorale conseguono un sacco di cose. Per esempio, insomma, accidenti di Parlamento dei nominati, insomma, non è che possiamo continuare ad andare avanti con una, oggi la frase, la frase migliore è di Buttiglione su Corriere. Poi ovviamente Buttiglione la mette in, diciamo, dice così hanno voluto PDL e Lega, e vorrei anche coinvolgere Gianola su questo. Ha detto d'altronde, se si vogliono portare i propri asini a pascolare e a passeggiare in Parlamento, non è che si può chiedere ai cittadini di poter scegliere, no? Questo, Gianola, questa è l'idea di dire, per questo hanno voluto le liste. Ovviamente poi ognuno dice che le liste bloccate le ha voluto qualcun altro. Lo stesso Calderoli, che ha fatto la legge, ha detto che è una porcata la sua legge, quindi insomma nessuno vuole attribuirsi la paternità di questa legge, però sta di fatto che questo forse è l'aspetto più importante: togliere queste liste bloccate, cioè poter scegliere chi nominiamo in Parlamento. Questo è un punto importante, Gianola? Ma sì, certo, quelle liste bloccate è uno dei limiti di questa legge elettorale, tra l'altro di cui oggi nessuno sembra volere la paternità, ed è una cosa molto curiosa. Però il problema è che questo 1.200.000 firme raccolte così velocemente testimonia, secondo me, anche qualcos'altro che prescinde dalla legge elettorale, cioè c'è probabilmente nell'opinione pubblica, tra i cittadini, la voglia e anche un po' la rabbia, l'impressione di riprendersi l'esercizio del diritto di voto in termini più ampi e più espliciti di quanto non si possa fare oggi. Allora, io non penso che il referendum sia la soluzione di tutti i mali, perché anzi di solito il referendum poi apre uno scenario di vuoto politico o di vuoto legislativo da riempire. Però questi cittadini che sono andati di corsa a scrivere il proprio nome sotto il referendum sono, secondo me, un'avanguardia di una massa di persone molto più ampia, molto più larga, molto più vasta, che intende un po' riprendersi la politica in mano, la gestione così del voto, dei partiti, di un impegno personale responsabile diretto che in questi anni, anche per colpa della legge elettorale, è stato loro tolto. Io non so se io ho sentito, ho letto qualche pezzo su questi giorni sul referendum elettorale, che sarebbe, diciamo, una sorta di, per alcuni anche una sorta di campagna dell'antipolitica. Beh, io direi di no, questo va in un senso opposto, cioè c'è la voglia di riprendersi in mano la responsabilità di decidere di votare. Anche se però tu, Rinaldo, hai usato un termine, antipolitica, che, attenzione, non so se avete già visto i giornali, ma oggi Repubblica con Claudio Tito racconta che Berlusconi sarebbe pronto proprio a una svolta su questo, cioè faccio un nuovo partito, o meglio torno alla vecchia Forza Italia, basta i partiti legati, i partiti burocratizzati, i partiti con le sezioni, con gli organismi, dirigente eccetera, l'importante è che il nuovo partito debba cavalcare l'onda dell'antipolitica antipolitica che serpeggia nel paese. Gianola, è un po', si può mettere insieme anche il jacuzzi di Della Valle in questo, no? Ci sta dentro tutto, però Berlusconi adesso magari si inventa un altro partito, torna alle origini, a Forza Italia, torna all'ipermercato di Casalecchio di Reno, alle origini di Forza Italia, può andare tutto, qualsiasi cosa. C'è da dire che Berlusconi non si capisce bene quale partito stia facendo, perché ad esempio il partito delle sezioni, dei congressi, il PDL non l'ha ancora fatto nei fatti, quindi non esiste. In realtà, diciamo, siccome Berlusconi capisce benissimo cosa sente l'opinione pubblica, è probabile che questo suo orientamento a scegliersi un nuovo partito, a ritorno alle origini, a quello dell'antipolitica, di cui lui è stato davvero il campione rappresentante, no? Perché vi ricordate, io sono l'uomo del fare. Sì, colui che ha spaccato i vecchi meccanismi. Bianchi, sono bianchi, rossi e neri, sono tutti uguali, non c'è differenza tra un partito e l'altro, io sono sopra i partiti. Adesso si vorrebbe magari ripresentarsi con questa formula. Non so se gli italiani questa volta gli possono credere di nuovo, anche perché Berlusconi, bene o quale è in campo e ha governato negli ultimi 20 anni questo paese. Sentiamo Secchi su questo. È presumibile, verosimile l'idea di un Berlusconi che sa, su questo possiamo essere tutti d'accordo, è uno che sa intercettare benissimo come cambia un paese, che possa buttarsi sull'idea di dire faccio un nuovo partito basato sull'antipolitica e mi rigenero così? Ma ci sta pensando da un anno e mezzo. Facciamo un titolo sul ritorno a Forza Italia in prima pagina sul Tempo di un anno fa, col nome e tutto. Ma al di là di questo, sì, Berlusconi ha capito che tira un'aria di, come dire, ristrutturazione del sistema, no? E in fondo dal 1992 ad oggi sono passati 20 anni praticamente, e quindi è anche un po' fisiologico, dettato anche dal fatto che molte formule sono obsolete, vecchie e alcune sono anche fallite, diciamoci la verità. Il problema è A, chi guida il partito, B, chi si candida al Palazzo Chigi, C, con quale programma. Ma che vuol dire? Che, cioè, che non può farlo Berlusconi, questo sta dicendo? Secondo me il candidato al Palazzo Chigi deve essere un altro. Questa è la mia opinione da sempre, nel senso che io penso che Berlusconi debba fare da, come dire, da ancora da padre fondatore guida del centrodestra, perché la sua capacità di attrazione dal punto di vista elettorale è ancora enorme, che se ne dica. Ma non dovrebbe essere lui il candidato a Palazzo Chigi, per la semplice ragione che bisogna anche, no, cambiare un po' le stagioni. Cioè, io vedo Alfano come candidato naturale. Alfa. Dopodiché si facciano le primarie, insomma, che è la cosa migliore. Ah, beh, sì, certo, le primarie come ci sono nel centro-sinistra. Tra l'altro, aggiungo, se ecco un effetto della riforma elettorale o comunque del referendum, se si torna ai collegi, a maggior ragione bisogna fare le primarie nei collegi per stabilire chi è il candidato. Eccoci qua, allora alle 8:47 minuti, sentiamo qualche ascoltatore. Angela da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque io dico che 1 milione di persone che vuole cambiare le cose non deve certo stupire, perché ce ne sono molti di più, di gente stufa di tutto quanto ci hanno buttato addosso dei politici indecenti. L'Italia politica è una palude, Berlusconi sarà il capo, è ricordato come il capo di questa palude. Non ci sentiamo rappresentati da queste persone e vogliamo gente nuova, vergine, i Renzi, i Tosi, gli Zaia, i Maroni, gente che pensa agli interessi della popolazione e non ai propri. Vogliamo gente che spazi via tutti i privilegi di queste persone che non se li meritano. Ma lei è convinta che quelli che ha citato spazzeranno via i privilegi, porteranno questo vento di cambiamento? No, però sono stufa della Bimbi, di Bersani, che sembra che abbia un cappello ricco di cose straordinarie. È già stato al governo, non ha fatto un tubo. Quindi Bersani, Bimbi, ho visto che saltano fuori altre persone come Boldi, sì. Di Liberto, non mi piace neppure Vendola con tutti questi toni trionfalisti. Ah, insomma, li sta bocciando un po' tutti, cara Angela. Siamo veramente stufi. Li sta bocciando un po' tutti, però insomma... Grazie Angela, la questione di fondo è lo sfogo, insomma, della rabbia nei confronti della classe politica. Andrea da Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dunque, io vorrei fare un appunto. Secondo me è dovere sacrosanto di ogni giornalista, conduttore di una rubrica di informazione, puntualizzare ed eccepire ogni volta che uno degli ospiti se ne esce con una... In che cosa? Siccome vi leggo una critica, in cosa non ho eccepito, Andrea? In cosa? Allora, un attimo fa il direttore del Messaggero ha detto che lui ha sempre sostenuto che Berlusconi non poteva essere il candidato alle prossime elezioni. Premier. Fino a 3 mesi fa lui ha sempre sostenuto che invece Berlusconi era il naturale candidato del PDL. Tutti gli ascoltatori a prendere internet e fare una breve ricerca, allora, e scopriranno che è così. Allora, non si può dire una fesseria e nessuno è lì a farlo notare. Secchi ha detto una fesseria e io non ho detto nulla. Eccoci qua, Andrea, rimanga qua. Secchi ha detto una e fesseria. Non ho capito. E quindi siamo questi, evidentemente non ha sentito cosa ho detto. Dunque, allora la cosa è molto semplice. La politica non è una scienza esatta, primo. Secondo, le opinioni sono opinioni, non è che sono, come dire, dei fatti incontrovertibili. Signore, che io abbia sempre detto che Berlusconi deve essere candidato, non è così. Ho sostenuto più volte che, date queste condizioni, Berlusconi non può essere candidato. Per mille ragioni. Primo, per l'età anagrafica. Secondo, per le condizioni politiche. Terzo, perché altrimenti non c'è una competizione dentro il PDL, perché è naturale che se si candida Berlusconi tutto il resto casca giù, no? È evidente, non possono esserci altri competitor. E comunque sono io il sostenitore delle primarie. Ho aperto io il dibattito dentro il centrodestra sostenendo che andavano fatte le primarie. Quindi, vabbè, io su questo non so, Andrea, non lo so, io non vorrei tramutarlo. Andrea è ancora con noi, Andrea da Modena, sì. Non vorrei tramutarlo, non so, il processo a secchi. Le va bene la risposta, così andiamo avanti? Non ho mica perché c'è la politica internazionale. No, non abbiamo capito niente, Andrea, ripeta. Berlusconi è finito non perché la politica internazionale lo decide, o la politica italiana o la situazione economica. Berlusconi è finito perché quando i tuoi più fidati collaboratori, come Fede o il procacciatore di puttane, che adesso mi anche vabbè, il nome, adesso Andrea, di loro si rubano, giocano, lei ha già messo i soldi che ti chiedono, o vediamo anche la Vitola che si è preso metà dei soldi che doveva dare a Tarantini. Quando i tuoi più fedeli collaboratori e consiglieri sono lì che cercano di fregarti, ma dove puoi andare a finire? Va bene, Andrea, lei c'ha già la sentenza scritta. Comunque, a proposito di sentenza, grazie Andrea. Gianola oggi apre il processo Rubi, ma quasi viene passato in secondo piano rispetto a forse le altre notizie, che sono le notizie più emergenti, no? Questo milione di firme. Ma c'è un Presidente del Consiglio che oggi, se il processo poi non verrà sospeso, rinviato, eccetera, la Corte Costituzionale, si apre un processo a suo carico molto molto con accuse importanti. Ecco. Sì, però l'impressione è che anche questo processo sia destinato a fare la fine di altri processi che hanno coinvolto Berlusconi, cioè rinvii, lungaggini, tentativi di sabotaggio del processo, e quindi io non mi aspetterei molto, diciamo, da questa, che pure è un appuntamento molto, molto di grande impatto mediatico. Insomma, io mi aspetto molto di più, direi, diciamo, da questo dibattito in questi giorni all'interno della maggioranza, se sulla legge elettorale, se si va a votare o no. Insomma, mi sembra che fino ad oggi la maggioranza di Berlusconi ha dimostrato di tenere, no? Ha passato delle prove anche difficili in Parlamento, il caso milanese, la manovra economica, e quindi pur risicata la maggioranza ha resistito. Oggi vediamo però che ci sono, diciamo, delle tensioni dentro la Lega, anche dentro il PDL, su andare a votare subito oppure no. Questo mi sembra essere l'elemento, diciamo, centrale della situazione. Anche perché se si va probabilmente a votare in questo, diciamo, nei prossimi mesi, bisogna vedere qual è la composizione del centrodestra e come si presenterà, perché io ho l'impressione che se per caso Berlusconi fa un passo indietro, si apre una voragine, si apre, come dire, un liberi tutti, in cui probabilmente pensano di infilarsi i Montezemolo, i Della Valle, diciamo, quel mondo imprenditoriale che, pur dicendo di non voler far politica, di non voler scendere in campo, mi sembra che stia sulla leggi questo nel J'accuse, in quella paginata, che sicuramente è un'iniziativa molto forte, quelle paginate comprate per esempio da Della Valle nei quotidiani, cioè un tentativo di scendere in politica, magari non attivamente, ma di è un modo anche questo di fare politica. È un po' direi che, se parliamo di antipolitica, il manifesto di Della Valle è il manifesto dell'antipolitica, nel senso che non c'è niente di più antipolitico di un imprenditore con grandi mezzi finanziari che utilizza lo strumento del manifesto a pagamento sui grandi giornali, di cui lui tra l'altro è anche azionista, per far che cosa? Insultare, denunciare, diciamo, tutti i politici, perché lì non ci sono distinzioni, non si fa distinzione. Sì, l'accusa è stata questa, cioè mettere tutti un attacco alla classe politica generalizzata, cioè non si fanno distinzioni, non si individuano le responsabilità, ad esempio, di chi ha condotto il paese in questi anni di crisi, e si fa un gran calderone perché cosa, poi uno si chiede. Beh, evidentemente che quando uno poi chiude il proprio appello richiamando alle persone di buona volontà che nel proprio ambito professionale o personale sanno fare il loro lavoro, sanno guidare la macchina, come dire, scendete in campo. Allora ragazzi, uno è un appello a Montezemolo, chi per lui, insomma, ecco, staremo a vedere. Anche questo c'è di novità nel dibattito politico. Io qui mi devo fermare, vi ringrazio Mario Secchi, direttore del Tempo, e Rinaldo Gianola, vice direttore dell'Unità. Sulla nostra pagina Facebook 24 Mattino continua il dibattito, ci trovate lì. Ringrazio Elisabetta Fusconi in redazione, ringrazio anche Laura Faggin che starà con noi questa settimana, e ringrazio Peter Bescapel Alpino che ovviamente starà con noi sempre, ogni tanto va in montagna ma poi torna. Allora ci ritroviamo domattina alle 7:20, a domani.